E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Salva Danaio di Deborah Rosciani. Danaio, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Ricominciamo una nuova settimana e soprattutto ricominciamo ufficialmente la stagione di Salva Danaio. 7 gennaio 2013, qual è il primo tema che abbiamo scelto per riprendere a pieno ritmo, a pieno regime le nostre trasmissioni? Un tema che immaginiamo ricordiate molto bene, perché ha rappresentato un grattacapo di non poca rilevanza per moltissime persone: il problema della cosiddetta ricongiunzione onerosa, che ha creato non poche preoccupazioni a centinaia di migliaia di lavoratori, quelli cioè che hanno al loro attivo più contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali e di conseguenza sentono la necessità di riunificarle per percepire un unico assegno. Tanto per fare un esempio, avete lavorato per un determinato periodo della vostra vita in un comune, in un ente pubblico, e poi vi siete trasferiti in un'azienda, avrete accreditati i contributi prima nella gestione appunto del settore pubblico e poi avrete accreditato gli altri contributi all'INPS. Allora, come comunicano queste due situazioni previdenziali? Ce ne eravamo occupati esattamente un mese fa, il 7 dicembre. Le norme che consentono questo tipo di ricongiunzioni prevedono un onere per il lavoratore, che si ritrova quindi a pagare un prezzo molto spesso estremamente salato per effettuarla. Questa procedura viene richiesta principalmente per un motivo, cioè la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia. Allora, che cosa è successo? Che il ministro del lavoro Elsa Fornero aveva dichiarato l'obiettivo di reintrodurre, non per tutti ma almeno per alcune categorie di lavoratori, la ricongiunzione gratuita in questi casi, e con la legge di stabilità 2013 si è effettivamente ristretto il campo, escludendo dalla ricongiunzione, che rimane in gran parte onerosa, coloro che hanno l'esigenza di cumulare i contributi pensionistici ai fini del raggiungimento della pensione di vecchiaia. Quindi, per semplificare, il cumulo gratis, ma è possibile non in tutti i casi. L'argomento non è semplice, per questo oggi cerchiamo di fare il punto su tutta la questione, ricordando quali sono i requisiti necessari e le procedure da seguire. Per le vostre domande in diretta 800 24 00 24, ci potete anche inviare dei messaggi al 349 238 6666, potete scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, animare come sempre le grandi chiacchierate che vi appassionano su Facebook al nostro profilo salvadanaio-radio24, potete andare anche su Twitter dove ci trovate all'indirizzo @salvadanaio24. Peraltro, l'ultimo tema che abbiamo affrontato venerdì scorso, quello dei saldi, stamattina ha scatenato davvero tantissime considerazioni da parte vostra. La domanda che vi poniamo oggi, appunto, la ricongiunzione onerosa: vi siete trovati in questa situazione perché avete dei periodi contributivi appunto sparpagliati in diverse gestioni? Avete già provveduto ad informarvi per la ricongiunzione, come dovrebbe funzionare nel vostro caso? Oggi con noi chi ne ha scritto molto sul Sole 24 Ore negli ultimi giorni, quindi sicuramente in questo momento il maggiore esperto in materia, in una materia che è complessa. Ringrazio, saluto e gli auguro buon anno, dottor Fabio Venanzi, dottore commercialista esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, io tra l'altro volevo anche ricordare che, a parte il grande lavoro fatto dal Sole 24 Ore nelle ultime settimane su questo argomento e su tanti altri, oggi c'è di nuovo un numero speciale dell'Esperto Risponde, con un focus dedicato alle pensioni nel 2013, quindi il tema è affrontato a 360 gradi, ad un anno dall'introduzione della riforma Monti-Fornero, che ha allungato i tempi di uscita per le pensioni di vecchiaia, tempi che dal 1 gennaio di quest'anno si sono ulteriormente allungati di 3 mesi per effetto dell'incremento delle aspettative di vita. Nel fascicolo allegato appunto alle Sole ci sono le risposte ai quesiti di più stretta attualità sui temi della previdenza e del lavoro, c'è naturalmente anche una finestra dedicata al cosiddetto cumulo gratuito retroattivo. Prima di introdurci in questo argomento, naturalmente un'occhiata alla giornata di borsa. Allora, gli indici del vecchio continente non partono benissimo in questo inizio di settimana, in questa prima settimana completa di contrattazioni del 2013. Abbiamo meno 0,6% a Parigi, meno 0,5% a Francoforte, meno 0,20% a Londra e Milano, che andava un po' meglio stamattina, adesso cede lo 0,08%. C'è da dire che però la settimana parte invece molto bene per il settore bancario. Tutti i titoli in tutta Europa hanno più o meno spiccato il volo. Comunque sono tutti positivi, fino alle prestazioni eccezionali direi di Banca Monte dei Paschi, regina d'Europa, più 10% in questo momento. E questo perché? Perché, come vi abbiamo già anticipato nel giornale radio, c'è stata ieri la decisione delle autorità bancarie mondiali di rinviare di 4 anni, dal 2015 al 2019, l'effettiva entrata in vigore delle norme di Basilea 3, quelle norme che richiedevano appunto alle banche, io vi semplifico molto la situazione, di ampliare i requisiti patrimoniali perché si trovassero pronte, casomai dovesse succedere di nuovo e chissà, a nuove situazioni appunto di crisi. I requisiti chiesti da Basilea 3 sono ed erano appunto molto stringenti. Allora i governatori delle banche centrali che cosa hanno detto? Hanno detto: i requisiti rimangono gli stessi, però diamo più tempo alle banche per poter ottemperare a queste richieste, per cui passerà dal 2015 al 2019 un'entrata in vigore graduale delle nuove norme, e appunto le banche questa mattina festeggiano. Monte dei Paschi, ve l'ho già detto, più 10%, già settimana scorsa era volata sulla scia dell'arrivo di queste novità. Unicredit più 4,32%, Banco Popolare più 2,56%, Intesa San Paolo più 2,32%, Popolare di Milano più 2,22%, questi i migliori titoli in assoluto. C'è da dire che alle banche, le banche avevano ricevuto un aiuto nelle ultime giornate, nelle prime giornate quantomeno di inizio anno, dalla discesa dello spread, che è arrivato sui 270 punti base, questa mattina è risalito un po' a 279. I cali invece a Piazza Affari dove li troviamo? Su Tenaris meno 1,86%, su Telecom meno 1,83%, Atlantia, Snam meno 1,6%, meno 1,5% per Terna, Diasorin meno 1,4% per Eni e Toz. Questa la situazione della borsa. Noi invece adesso andiamo al tema di oggi, la nostra scheda sulle ricongiunzioni non più onerose. Sono circa 600.000 lavoratori che, in base ad una legge del 2012, si sono trovati nella condizione di dover effettuare la cosiddetta ricongiunzione onerosa. La procedura riguarda tutti coloro che, avendo versato nel corso della vita lavorativa i contributi a diversi fondi previdenziali, si sono poi trovati a trasferirli al fondo pensioni dei dipendenti INPS per mantenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il metodo retributivo, e quindi un assegno mensile più sostanzioso. Un trasferimento molto caro che in alcuni casi può arrivare a costare centinaia di migliaia di euro. Il lavoratore deve infatti versare un onere calcolato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e alla loro valutazione ai fini pensionistici. Il ministro del Lavoro Elsa Fornero aveva recentemente dichiarato l'obiettivo di reintrodurre, almeno per alcune categorie di lavoratori, la ricongiunzione gratuita in questi casi, e con la legge di stabilità 2013 si è effettivamente ristretto il campo, escludendo dalla ricongiunzione onerosa coloro che hanno l'esigenza di cumulare i contributi pensionistici ai fini del raggiungimento della pensione di vecchiaia. La facoltà può essere esercitata quindi solo per ottenere la pensione di vecchiaia, secondo i nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero. Nel 2013 si conseguirà con 66 anni e 3 mesi di età, salvo per le lavoratrici nel settore privato, che si fermano per il momento a 62 e almeno 20 anni di contribuzione. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Vi preannuncio già che il tema, solo ad annunciarlo, ha scatenato una marea di telefonate, di sms. Cercheremo di rispondere a tutti. Prima andiamo naturalmente alle questioni di carattere generale, poi andremo nel particolare con le vostre situazioni. Ci potete anche scrivere, appunto, oltre che chiamarci all'800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666, il numero per i vostri sms. Allora, dottor Venanti, anzi dobbiamo spiegare questa nuova modalità di cumulo che consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi posseduti presso più forme di assicurazione. Magari possiamo anche ricordare, perché forse vale la pena farlo per le persone che non sono in questo momento direttamente interessate alla questione, perché ci siamo posti questo problema della cosiddetta ricongiunzione onerosa, quando è stato sollevato prepotentemente il tema. Ricordiamo appunto la legge 122 del 2010 che aveva introdotto questo onere. Ci aiuta un po' a ricostruire la cornice della situazione, dottor Venanzi? Sì, allora, la legge 122 del 2010 aveva di fatto tolto la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi nei cosiddetti fondi sostitutivi, come appunto il fondo ex Imprap, il fondo Enel, il fondo del post telegrafonici, gratuitamente dalla gestione sostitutiva all'INPS, abrogando di fatto quella che era la legge 322 del 58. Questo perché si rischiava che il trasferimento di questi contributi potesse comportare una maggior quota di pensione a favore dell'assicurato, senza che però lo stesso effettivamente sostenesse avesse effettuato dei contributi, avesse versato dei contributi. Esatto. E soprattutto c'era il rischio, come l'esempio delle donne del pubblico impiego, che addirittura con il trasferimento della contribuzione potessero uscire prima, essendo iscritte INPS, rispetto a che se fossero rimaste iscritte all'INPDAP. E quindi nell'estate 2010 fu tolta tale possibilità, naturalmente con effetto retroattivo fu fatto, perché la legge di conversione era di fine luglio e fu retrodatata al 1 luglio l'impossibilità di trasferire gratuitamente i contributi. E che cosa è accaduto poi, quindi? Che in questi due anni di fatto le persone che rischiavano, o meglio che volevano andare in pensione, rischiavano di dover sopportare un onere, proprio perché la possibilità di trasferire i contributi era legato al pagamento di un onere. Onere molto elevato nella maggior parte dei casi, come abbiamo detto anche l'altra volta, a causa della rivisitazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica, cioè dell'importo dei contributi da trasferire. Questo in capo all'assicurato ha comportato quindi o il dover accettare il provvedimento molto oneroso, oppure di rifiutarlo e quindi di ricorrere ad altre alternative, quali per esempio quella della totalizzazione nazionale. Totalizzazione che consente sì l'uscita anticipata, in quanto è possibile sommare tutti i periodi contributivi e quindi raggiungere il requisito anagrafico necessario. Esatto, con la penalizzazione però di vedersi calcolare il più delle volte un trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo, e quindi fortemente penalizzante nei confronti di quei soggetti che invece avevano un sistema misto retributivo e quindi si vedevano calcolata una prestazione pensionistica sulla base delle ultime retribuzioni. Tra l'altro volevo ricordare che anche venerdì 28 dicembre il Sole 24 Ore ha pubblicato un ampio ed articolato dossier su tutte le novità pensionistiche di quest'anno, e qui effettivamente è una parte di uno scritto di Fabio Venanzi, nella quale mi sono imbattuta, che faccio fatica a leggere oltre la diciamo quindicesima riga, la parte proprio in cui spiega come si calcola l'onere della ricongiunzione e perché si arriva a dover tirar fuori per le pensioni, appunto per le persone che sono interessate, diverse centinaia di migliaia di euro, proprio perché appunto deve essere considerato tutto l'aspetto delle riserve matematiche, appunto delle gestioni assicurative. Adesso non stiamo a spiegarlo, poi magari se ci vogliamo togliere la curiosità cercheremo di dare questa formula matematica, ma in ogni caso la sostanza non cambia, appunto l'onere è veramente veramente alto. Quindi si è deciso di intervenire. Noi avevamo annunciato nella puntata del 7 dicembre l'arrivo imminente di una circolare dell'INPS e poi naturalmente di una norma di legge che appunto definisse la questione. È stato questo poi il passaggio, o è intervenuta direttamente la legge di stabilità, dottor Venanzi? È intervenuta direttamente la legge di stabilità, che ha disciplinato due aspetti fondamentali della legge 122. Il primo riguarda i dipendenti che potevano vantare contribuzione presso l'ex INPDAP e che risultavano già cessati attività al servizio entro il 30 luglio 2010, mentre la seconda parte di norme che interessa forse una platea più ampia dei nostri ascoltatori è quello di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme di assicurazione obbligatorie. La facoltà naturalmente di cumulo, come avete detto anche voi nella scheda introduttiva, è legata esclusivamente però alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia. Vecchiaia che da quest'anno è cresciuto ulteriormente a causa dell'aumento legato alla speranza di vita e quindi siamo passati a 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti autonomi nonché per le lavoratrici del pubblico impiego, 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici del settore privato dipendenti, 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici del settore privato e autonomo. E almeno 20 anni di contribuzione. E almeno 20 anni di contribuzione, perché così è stato stabilito nella riforma. Quindi quelle persone, quei lavoratori che quest'anno raggiungono questi requisiti, avessero bisogno di effettuare la cosiddetta ricongiunzione, non la faranno più in maniera onerosa. Esattamente, possono a raggiungimento appunto dell'età anagrafica cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi e chiedere all'ente previdenziale dove risultano certificati questi periodi la liquidazione di tanti pro quota, cioè di tante quote di pensione strettamente correlate alla contribuzione accreditata. In base a quello che risulta disciplinato appunto nella legge di stabilità 2013, il soggetto pagatore di queste quote di pensione sarà sempre l'INPS, che poi si rivarrà su gli altri istituti previdenziali. Ecco, dottor Venanzi, peraltro questa è naturalmente una situazione, il punto in cui interviene la legge di stabilità sana la condizione e la situazione delle persone che stanno andando in pensione, che erano in procinto appunto di andarci, che si ritrovavano con questa bella sorpresa, no? Quindi chiaramente devono essere tutelate. Naturalmente ci stanno telefonando questa mattina molte persone che invece ancora sono magari un po' lontane dal momento in cui andare in pensione, chissà che questo momento non si allontani sempre di più, vedremo che cosa succederà prossimamente, ma in ogni caso credo che con la riforma ultima del ministro appunto Elsa Fornero al momento abbiamo messo in sicurezza il sistema per un bel po' di tempo, speriamo, perché tiene in considerazione anche appunto tutte le aspettative di vita, tutti gli aspetti di cui abbiamo detto già tante volte, però appunto dicevo, tutte le persone che ci stanno telefonando, per la verità sono persone che ancora non devono andare in pensione ma che stanno maturando proprio anche un po' per la peculiarità che ha adesso il mercato del lavoro, contributi previdenziali già spalmati in appunto enti previdenziali diversi, per cui dovremmo capire anche alla luce di questa novità, se c'è qualcosa che cambia per loro in prospettiva. Possiamo già dare delle indicazioni, poi le faccio cominciare a sentire anche le situazioni singole, dottor Venanzi? Sì, guardi, allora gli aspetti, un aspetto meglio di maggior favore nei confronti degli assicurati è che nella possibilità del cumulo gratuito istituito appunto dalla legge di stabilità è possibile ricomprendere anche la gestione separata INPS. Ricordiamo che la gestione separata INPS per la sua natura non era ricongiungibile e continua a non esserlo, quindi il cumulo al raggiungimento dell'età prevista per la vecchiaia può risultare maggiormente favorevole in quanto possono essere presi in considerazione quei periodi accreditati in gestione separata che altrimenti con la ricongiunzione rimarrebbero esclusi perché non sarebbero ricongiungibili. Qual è quella tipologia di lavoratore, dottor Venanzi, che tipicamente versa i contributi alla gestione separata INPS? Sono i collaboratori coordinati e continuativi del pubblico impiego oppure i collaboratori a progetto nel settore privato. Mm-hmm. Allora, nonché abbiamo anche tutti gli autonomi privi di cassa previdenziale. Certo, allora chi non ha un lavoro dipendente, quindi che però ha come unico ente di previdenziale di riferimento l'INPS, però non può far confluire appunto i suoi contributi nella condizione tradizionale, ma deve appunto essere collocato in una condizione particolare. Io so che sono molto, cerco di banalizzare molto le questioni per farle capire a tutti, dottor Venanzi, spero di averlo detto appunto correttamente. Allora ci fermiamo, no, ma forse ancora abbiamo un minuto di tempo, direi che possiamo già già sentire subito una prima domanda e poi appunto continuiamo su questo tema, le cosiddette ricongiunzioni gratis per le pensioni di vecchiaia. Andiamo al primo ascoltatore che si era messo in attesa, probabilmente era Rocco dalla provincia di Pistoia. Rocco, buongiorno, io le auguro ancora buon anno, siamo ancora in tempo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, buona giornata. Buongiorno e buon anno, e buon anno anche a voi. Ci dica. Io volevo dire, io ho versato 14 anni di contributi all'estero, cioè in Germania, e più 25 qui in Italia. Ora, per congiungere tutti i contributi, che cosa devo fare? Devo pagare come normalmente o rientro anche in quello come avevate detto voi? Rocco, quanti anni ha intanto? Oggi 60. Ma deve andare in pensione a breve lei? No, dovevo andare l'anno prossimo, però è cambiato la legge e sono rimasto... È rimasto lì. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi riprendiamo le nostre trasmissioni parlando di previdenza, parlando di pensioni, perché la legge di stabilità 2013 ha stabilito a determinate condizioni la gratuità del trasferimento dei contributi verso l'INPS se naturalmente nel corso della propria vita professionale se ne fossero versati altri in altri enti previdenziali. Nella fattispecie appunto la legge di stabilità ha voluto sanare quella situazione di quelle persone che magari in un determinato periodo di tempo della propria vita lavorativa hanno versato i contributi presso le casse di enti previdenziali pubblici, poi sono passati al privato, e chiaramente mettere insieme queste due situazioni era un mettere insieme oneroso e molto salato, questo secondo quanto stabiliva appunto una legge del 2010, la 122, di cui non vi stiamo di nuovo a spiegare la ratio di introduzione perché l'abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione. Che cosa è successo naturalmente? Che questo metteva in difficoltà tutte quelle pensioni che proprio nel 2011 raggiungevano i requisiti per andare in pensione e si ritrovavano appunto a non poter mettere in comunicazione questi due periodi della propria vita, e per poterlo fare dovevano sborsare non 100, non 200 euro, ma diverse centinaia di migliaia di euro, anche 100-150 mila euro, secondo anche la denuncia che era arrivata da molti ascoltatori. C'è stata anche una puntata di Report su Rai 3 molto dettagliata su queste vicende. La legge di stabilità ha sanato la situazione, però non l'ha sanata naturalmente per tutti. Fabio Venanzi, ricordiamo ancora una volta, poi ritorniamo ai casi dei nostri ascoltatori. Nella sostanza, la gratuità del trasferimento dei periodi assicurativi verso l'INPS è possibile solo, per esempio, se è cessato il rapporto di lavoro con un datore di lavoro statale o pubblico entro il 30 luglio del 2010. Esattamente. Se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 luglio 2010, è possibile presentare la domanda di trasferimento dei contributi anche successivamente. Quindi sono stati riaperti i termini per poter valorizzare la contribuzione presso l'INPS, mentre prima della legge di stabilità bisognava aver presentato la domanda entro il 30 luglio 2010, quindi di fatto i soggetti cessati comunque precedentemente al 2010 ma che non avevano fatto la domanda per dimenticanza o perché magari ancora lontani dalla pensione non potevano presentarla più. Oggi invece possono presentarla. Detto questo, quindi Rocco che cosa deve fare? Ricade all'interno della categoria delle persone che possono fare la ricongiunzione gratuita o no? Allora, la questione di Rocco è particolare perché interessa contribuzione estera. Una piccola precisazione però Deborah me la deve consentire, certo. In quanto il trasferimento, in realtà il cumulo non consiste in un trasferimento dei contributi. I contributi rimangono sempre valorizzati nella gestione previdenziale dove sono stati versati. Ah. È possibile però sommarli come se fossero stati riuniti al fine di conseguire il diritto a pensione, ma in realtà i contributi rimangono ognuno nella propria gestione. Quindi devo essere attenta ad utilizzare il termine, tra l'altro il termine trasferimento, questo esatto. Cumulo gratuito retroattivo, così titola anche appunto il Sole 24 Ore nello speciale Esperto Risponde di questa mattina, vale quando nella sostanza devono essere messe insieme posizioni che vanno praticamente dal fondo pubblico all'INPS, ma al contrario rimane comunque onerosa la ricongiunzione? No, è possibile effettuare il cumulo in qualsiasi caso, l'importante è che il soggetto possa vantare l'età prevista per la vecchiaia. Ho capito, no, allora avevo capito male un articolo del Sole 24 Ore, poi me lo vado a riguardare meglio. La questione è talmente complessa che davvero il cervello fa fatica ad anche applicarsi. Perché, anche perché noi dobbiamo dimenticare che la norma è di 14 giorni fa, ecco. E l'INPS ancora non ha emanato alcuna istruzione circolare in merito. Ecco, quindi aspettiamo adesso anche una circolare che dia qualche dettaglio in più sulle modalità applicative. Sicuramente. Ecco, quindi dall'INPS arriveranno altre notizie. Allora, ecco, quindi dobbiamo concludere la situazione di Rocco. Sì, invece su Rocco, avendo lavorato 14 anni all'estero, questi periodi contributivi non potranno essere mai trasferiti in Italia, ma possono essere soltanto valorizzati in Italia come se fossero stati lavorati effettivamente in Italia in maniera gratuita. In realtà Rocco percepirà due pensioni, la prima quella dei 14 anni legata al lavoro all'estero. All'estero, quando raggiungerà l'età prevista nella Germania per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia, che oscilla tra i 65 ecco. E i 67 anni. Mentre in Italia potrà accedere alla pensione o quando arriverà a 67 anni o comunque all'età prevista per la vecchiaia, essendo nato nel 1953 dovrebbe raggiungere il requisito tra il 2019 e il 2020 in previsione, oppure quando riesce a raggiungere il diritto alla pensione anticipata, cioè quelli che una volta erano i 40 anni e che oggi per effetto della riforma sono stati innalzati a 42 anni. Quindi nella sostanza Rocco deve tenere in considerazione due situazioni parallele ma distinte. Esatto. Non può dire ho lavorato 14 anni all'estero e 25 in Italia, quindi ho raggiunto 39 anni di contribuzione, questi mi valgono per l'erogazione dell'assegno pensionistico italiano. Allora lo può dire, lo può fare, però la pensione che poi materialmente l'Italia, l'INPS metterà in pagamento non sarà legata ai 39 anni, bensì sarà calcolata sugli anni effettivamente lavorati in Italia. Cioè come se noi andassimo a dire, impropriamente, volendo un po' banalizzare, che quei 14 anni esseri sono utili al fine di raggiungere il diritto alla pensione, ma non sono utili poi nella determinazione dell'importo pensionistico. Non può farla diventare una posizione italiana questa, no, all'estero? No. Questa è una situazione particolare. Allora andiamo a sentire adesso invece Antonio da Foggia, che ha già presentato nel 2005 addirittura la domanda per la ricongiunzione. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei e buon anno. Altrettanto. Dunque, il problema si tratta di ricongiunzione di contributi INPS per il periodo di supplenza in scuola statale, che sono proseguite poi con rapporto a tempo determinato e contributi versati all'INPS. Cioè, con la scuola, Antonio, lei versava l'INPS, mi scusi? Sì, nel periodo di supplenza i contributi la scuola li versava all'INPS. Ah. Quindi per 8 anni all'INPS, successivamente con l'assunzione a tempo indeterminato i contributi sono stati versati all'INPS, quindi io dovrei ricongiungere questi contributi. Oltretutto lavorando sempre per un'unica entità che è la scuola, anche questa è un'altra cosa divertente. Vabbè. Esattamente, quindi avendo presentato la domanda nel 2005, ricadrebbe il tutto negli effetti della successiva legge del 2010 oppure no? Antonio, quanti anni hai? Glielo posso chiedere, so che 59. Non è molto carino. Grazie, 59. Grazie mille. Vediamo se anche questa informazione sulla requisito anagrafico. Sì. Per effetto dell'ulteriore della legge di stabilità, qualora non si dovesse affrontare il pagamento oneroso, nel caso di domanda di pensionamento per anzianità, come si dovrebbe regolare? Grazie Antonio. Allora sentiamo un po' adesso se abbiamo dato tempo sufficiente al nostro Fabio Venanzi per riflettere su questo caso. Io già mi sono persa, ma in ogni caso la cosa divertente è che pur lavorando per il medesimo soggetto, quindi la scuola, per la supplenza i contributi vanno all'INPS, se invece si assume un contratto a tempo indeterminato i contributi vanno all'INPDAP, che questa mi sembra già una mezza follia. Però la contribuzione da supplenza sia diciamo non recente, abbastanza remota. Sì, quanto remota non so, perché Antonio ha 59 anni, potranno essere 30, più di 30 anni sicuramente. Allora, che insegna. Allora, consideriamo che fino all'87 era normale che i periodi di supplenza venissero diciamo coperti all'INPS. Successivamente dipende. Sì, ci stiamo, diciamo anagraficamente ci stiamo. Sì, per questo dicevo è una cosa che può tranquillamente essere corretta così. Se lui ha fatto domanda prima del 2010, varrà sempre quella domanda. Sì, l'ha fatta nel 2005, Antonio. Esatto. E può ricorrere, essendo attualmente, immagino, personale di ruolo nella scuola, può ricorrere al cosiddetto computo, cioè ricongiungere quei servizi resi allo Stato, come il caso suo, che però hanno dato luogo ad iscrizione all'INPS oppure ad altri fondi. Quindi anche in questo caso non siamo proprio nella fattispecie della ricongiunzione tipica di cui stavamo parlando, ma è una sfaccettatura del personale statale che, come evidenziava prima lei Deborah, sempre dipendente dello stesso ente, ma in realtà ha una contribuzione frazionata. Gli conviene fare questa operazione ad Antonio, fare questo computo, anche se non è come dire in procinto di andare in pensione il nostro ascoltatore, però così per curiosità, oppure vale la pena per qualche altra finalità effettuare questa operazione, Venanzi? No, conviene farla perché comunque nulla è dovuto dal dipendente, quindi un'operazione gratuita. Certo. E quindi gli dà un po' la misura di quello che potrebbe essere l'assegno pensionistico e la come dire il momento in cui andrà in pensione. Così, sì, è un di po' fatto quei periodi da supplente, una come fotografia se fossero... della sua situazione potenziale. Sì, esatto. Invece l'altra domanda che aveva fatto relativa al cumulo per la pensione di anzianità, dobbiamo dire che al momento la legge di stabilità 2013 non ha previsto tale facoltà, ma perché l'obiettivo è quello di disincentivare l'accesso anticipato alla pensione rispetto a quella di vecchiaia, tant'è che noi sappiamo benissimo che i soggetti che dovessero maturare un requisito contributivo sufficiente per accedere alla pensione, ma che non sono in possesso dell'età anagrafica per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, subiscono delle decurtazioni percentuali a seconda dell'età, se questa è inferiore a 62 anni. Quindi la penalizzazione non si applica, secondo la riforma Monti-Fornero, qualora il servizio computato ai fini contributivi sia servizio effettivamente prestato, oppure malattia, infortunio, cassa integrazione, oppure astensione obbligatoria dal lavoro. Negli altri casi, invece, se per esempio nei 42 anni dovessero essere annoverati un 4 anni di riscatto e il soggetto dovesse avere un'età inferiore a 62, opereranno le riduzioni percentuali legate al fatto che il soggetto ha un'età comunque inferiore alla età obbligatoria, certo. Sì. Allora, io adesso avrei altre domande di altri ascoltatori. Siccome abbiamo un minuto e mezzo prima della prossima pausa, direi che possiamo rispiegare, perché ce lo stanno richiedendo molti ascoltatori, Venanzi, ancora una volta la differenza fra ricongiunzione e totalizzazione, che sono due istituti molto simili, sono che praticamente, per essere molto banali, uno è più penalizzante economicamente, però nella sostanza valgono entrambi per mettere insieme periodi contributivi differenti. Esattamente. Perché la totalizzazione è più penalizzante economicamente? Allora, la ricongiunzione è onerosa perché i contributi accreditati presso un ente previdenziale vengono materialmente trasferiti in un'altra gestione previdenziale, come se quel periodo fosse stato sempre lavorato con l'iscrizione in quell'ente. A differenza della totalizzazione, invece, dove i periodi rimangono sempre accreditati nelle singole gestioni previdenziali, è possibile utilizzare il cumulo, chiamiamolo così, o meglio totalizzare tutti i periodi che non vanno in sovrapposizione, ma con la penalizzazione che il trattamento pensionistico derivante dalla sommatoria di questi periodi in realtà comporta un trattamento pensionistico liquidato secondo le regole contributive, quindi non agganciato alle ultime retribuzioni, bensì agganciato alle contribuzioni, ai contributi versati durante la vita lavorativa. Che è tra l'altro la strada che sta prendendo complessivamente tutto l'impianto pensionistico italiano. 800 24 00 24, per ritornare a parlare di ricongiunzioni non più onerose. Chi abbiamo in diretta? Ecco, Giuliano dalla provincia di Vercelli mi interessava. Giuliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Lì è un po' un caso più unico che raro. Guardi, qua per le pensioni saremo sempre più tutti peculiari e singolari, Giuliano. Mi faccio morire per ridere. No. Diciamo che ho lavorato dal 2002 al 2008 sotto un comune, ma ho contributi spalmati sia sull'artigianato, in agricoltura e adesso sull'ecologica. Materialmente mi sono dimesso dall'agosto del 2008 da dipendente comunale, quindi rientro in una determinata fascia, però ho 30 anni di versamenti fatti. E quanti, Giuliano? 32? 32, sì. 32 fatti. Quindi, essendo nel 13, sono all'inizio del 33esimo. Materialmente, al di là dell'illusione di avere 42 anni, 6 mesi o quante saranno le finestre, debbo chiedere un ricongiungimento o devo lasciare stare le cose così come sono e lavorare fino a 50 anni diversamente fatti, quindi 70 anni di età? Giuliano, niente, lì bisognerebbe perdere un po' di tempo con un bravo consulente del lavoro previdenziale che le dia, come dire, una rosa di opzioni possibili in relazione alla sua situazione per appunto stimare la convenienza di una soluzione rispetto ad un'altra. Fabio Venanzi, la sua considerazione generale intanto l'età sul caso di Giuliano? Giuliano non ce l'ha detta l'età, ha 32 anni di versamenti complessivi, Giuliano ne avrà poco più di 50 lei? 50 giusti. Ecco qua, Giuliano ha 50 anni, sì. Mancano obiettivamente troppi anni per potergli dare un consiglio, soprattutto per quello che riguarda la pensione di vecchiaia, in quanto non arriverà sicuramente prima del 2019-2020, secondo le stime previste per gli adeguamenti alla speranza di vita. Per quanto riguarda la pensione anticipata, quella che si conseguiva con gli ex 40 anni, bisogna effettivamente vedere i contributi agricoli possono essere comunque cumulati secondo una norma del 1990, perché il cumulo è nuovo oggi per la stra maggioranza dei casi, ma già esistono degli antenati, chiamiamoli così, riguardante la possibilità di cumulare contributi, e quindi vedere alla fine quella che sarà la sua gestione previdenziale all'atto della cessazione. Naturalmente dobbiamo dire che le domande di ricongiunzione in particolar modo hanno un costo, un onere se presentate in un certo momento, l'onere con il passare del tempo cresce perché un fattore che purtroppo viene preso a considerazione per determinare appunto la riserva matematica è strettamente legato all'età anagrafica posseduta dal dipendente. Comunque lui ha terminato la sua prestazione professionale presso il comune di cui diceva nel 2008, facendo la domanda ora, secondo lei poi bisogna vedere di ricongiunzione a quale ente oggi dove è iscritto. Infatti l'ecologica ci ha detto, adesso non so, Giuliano è ancora in diretta con noi? Sì, sono qua. Qual è l'ente previdenziale attuale? Ma adesso mi mette in crisi materialmente. Comunque il sistema, le buste paga sono segnate al sistema dell'INPS, poi il contratto sindacale è un altro, quello che i referenti è un'altra sigla ancora. Se fosse attualmente iscritto all'INPS ed essendo cessato prima del 2010, ha diritto alla ricongiunzione 2010, non onerosa, gratuita. Esatto, rivive la 322 del 58 e quindi può chiedere, anzi, arrivato a questo punto, visto che a 50 anni non credo che ritorni ad essere dipendente pubblico, trasferisca gli anni all'ex INPS dato presso l'INPS, almeno limita al massimo gli istituti previdenziali. La frammentazione, ecco. Esatto. Certo, rende un po' più coerente la sua situazione, Giuliano. Ci faccia sapere come va. Andiamo adesso, bocca al lupo a lei Giuliano, buon anno. Andiamo adesso a Mimma dalla provincia di Milano. Mimma, buongiorno. Buongiorno, io avrei bisogno di sapere queste informazioni, un chiarimento. Mia figlia ha 11 anni di versamenti presso l'Inarcassa, la Cassa degli Ingegneri e degli Architetti. Dal 2008 è presso l'INPS. Volevo sapere se la ricongiunzione sarebbe gratuita o onerosa. Allora, anche per i professionisti ci sono delle regole abbastanza particolari. Venanzi, lei ne scrive appunto facendone la differenza con i lavoratori dipendenti, se in questo speciale del 28 dicembre pubblicato dal Sole 24 Ore. Per i professionisti c'è una norma di riferimento che risale al 1990, che è la legge 45. Cosa cambia per queste figure professionali alla luce appunto di quanto ha contemplato la legge di stabilità? Guardi, al momento dobbiamo dire assolutamente nulla, perché la legge di stabilità contempla solo le ricongiunzioni per i lavoratori dipendenti. In questo caso subentrando una cassa professionale e non essendo la norma di riferimento la numero 29 del 79, bensì, come diceva giustamente lei, la 45 del 90, non c'è possibilità di cumularli anche quando il soggetto dovesse arrivare all'età prevista per la vecchiaia. Una precisazione dovuta che dobbiamo fare in questo caso è che qualora questi 11 anni di inarcassa dovessero diventare INPS, l'interessata non potrebbe più ricorrere un domani alla totalizzazione, in quanto la totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione onerosa. Quindi che cosa gli conviene fare in questo momento? Allora, considerando le ricongiunzioni il più delle volte dalle casse libero professionali all'INPS sono onerose, difficilmente arrivano con un onere zero, il consiglio che possiamo dargli, non sappiamo l'età della figlia di Mimma, ma è quella di attendere, in modo che non si preclude alcuna possibilità, perché se oggi andasse a ricongiungere e accettasse il provvedimento di ricongiunzione, un domani non potrebbe più totalizzare. Quindi aspettare qualora diventasse la totalizzazione più conveniente economicamente, a che condizioni potrebbe diventare più vantaggiosa? Solo se le consentirebbe di uscire anticipatamente. Solo questo, perché in realtà la totalizzazione, abbiamo detto, per norma è sempre contributiva, salvo casi particolari. In questo caso immagino che comunque la figlia sia giovane e quindi diventa difficile poter fare una proiezione a lunga durata. Ci sono molti ascoltatori, adesso me ne faccio sentire uno, che è Silvano da Seregno, che ci chiedono come devono porsi in relazione a condizioni contributive aperte presso l'ENASARCO, che è l'ambito appunto del commercio, che peraltro ha una disciplina tutta sua anche quando andiamo ad affrontare il tema dal punto di vista della previdenza complementare. Allora sentiamo un po' Silvano da Seregno se possiamo dare delle indicazioni generali anche relativamente a quei lavoratori che hanno delle posizioni previdenziali aperte presso questo ente di previdenza. Silvano, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'opportunità. Dunque, io per la verità sono già un pensionato e a suo tempo feci una ricongiunzione da INPDAI, perché ero dirigente, a INPS, perché a quel punto era la più conveniente dal punto di vista oneroso e dal punto di vista, se vogliamo, poi dell'assegno pensionistico percepito. Esattamente. Nel frattempo io ho fatto 8 anni come agente di commercio versando i contributi in ENASARCO. A questo punto chiesi se c'era la possibilità di sfruttare anche questo. Mi avevano detto a suo tempo che erano pochi 8 anni, dovevo averne fatti almeno, avrei dovuto fare almeno 15. Mm-mm. Volevo sapere se con le ultime eventuali innovazioni piuttosto che aggiornamenti sulla ricongiunzione c'era la possibilità di recuperarli. Grazie Silvano. Allora è chiaro che la domanda di Silvano è finalizzata a capire se può migliorare l'assegno, il trattamento pensionistico, visto che lui in pensione c'è già. Questi 8 anni di versamenti fatti all'ENASARCO deve proprio buttarli nel water? Venanzi l'ascoltatore. Allora, guardi, i contributi versate alla Fondazione ENASARCO non sono totalizzabili, danno diritto soltanto a una prestazione autonoma, oppure l'alternativa è che restano incamerati alla Fondazione stessa. Mi viene da dire però che quando il soggetto è stato agente di commercio doveva avere una contribuzione obbligatoria all'INPS, in quanto l'ENASARCO per sua natura ha sempre una natura integrativa. Quindi bisognerebbe capire se effettivamente quando... Se ce l'avesse, se potesse dimostrare appunto questa condizione, cosa cambierebbe per Silvano? No, nel senso che la Fondazione ENASARCO di fatto eroga una pensione solo se vengono raggiunti i suoi diritti all'interno del proprio ordinamento. Non è possibile far rientrare l'ENASARCO negli eventuali cumuli oppure nei periodi oggetto di totalizzazione. Allora, sentiamo Alessandro da Siracusa, l'ultima domanda di oggi. Ritorniamo però su un tema che abbiamo già affrontato prima, quando ci ha fatto la sua domanda l'ascoltatrice, che aveva appunto una figlia che aveva accreditato un tot di contributi per un certo numero di anni presso l'Inarcassa, quindi una determinata cassa. È sparito il nostro ascoltatore? Non c'è più? No, c'era un ascoltatore appunto siciliano, sì, Silvano. Sì, Eccoci qua, mi scusi, me l'hanno cancellato dal monitor, mi hanno fatto i dispetti i ragazzi della tecnica. Buongiorno, mi scusi, non mi ricordavo il nome, adesso non lo, perché è scomparso dalla mia piattaforma. Alessandro, ecco appunto. Alessandro, buongiorno. Allora, cerco di essere velocissimo, buongiorno a voi e complimenti sempre. Sono un avvocato iscritto alla Cassa Forense dal 2007. Un paio di anni fa l'Ips mi ha chiesto per mia colpa il pagamento della gestione separata, in quanto negli anni precedenti, quando ancora non avevo l'abilitazione, non avevo versato contributi né all'Ips né alla Cassa Forense. Ma questa è una colpa mia o del mio commercialista che non me lo disse. Alessandro, volevo, mi scusi, sì, siccome stiamo andando alla chiusura, ci fa la cortesia, io me ne sono accorta solo adesso, ho 40 secondi di tempo prima di salutarci, faccio rispondere in 10 secondi a Venanzi, poi magari ci scriva, le faccio rispondere in maniera più dettagliata dal nostro esperto. Venanzi, Cassa Forense e tutto il resto. Sì, di fatto il periodo precedente all'iscrizione alla Cassa Forense, se l'ascoltatore ha comunque svolto, esercitato una qualche forma di professione, doveva risultare iscritto alla gestione separata INPS. E va bene, poi per tutto il resto gli risponderemo con più calma. Venanzi, grazie, oggi l'abbiamo veramente messa sotto pressione. Ritorna lo stesso prossimamente ad aiutarci. Sicuramente, a disposizione. Grazie molto a Fabio Venanzi, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Noi ritorniamo domani. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata.